Atterrata, queste a terra risperata, risperata. E caria fina c'è stato fine, sacchetta miscata, mariglia, un dagnelle cianura sulla pianura, a chiaiana mi perse c'è ras, a chi sporca rignuta fanno a terzigna. Arzigna. A macchia sovrana e casa al duna, piano d'ardinaria nirchino, difesa grande savignana, a Sant'Angelo e Calabrit, Serra Louter e Vallata. Vallata! E Villa Liderne, Giuliano e Marana, Castel Volturna, Fravole e Caivan, Bosco Reale, Cardide e Mugnan, Santa Maria e Pumigliana. La brutta guerra si è fatta pacerra, aliando cianure e batteria, bisesto, biombo ed ecoballe, arsenico, cadmio e diossina, scumma, yang e pergolata, questa roba che ci hanno rialata. Ci hanno rialata. Frace dunque, sarcetrice, uova da orti e balice, sicchiere giole, mostre, gravune, porcellozze, scarpone, marozze, bruattole, notrena, toglie, arche e terreno, capone, soglie e sereng, e me ne bocce, piermene stanca. Braglie, candole, botte, chiunque, cica, cacolla, canzone, zeppurna, porfa, trecce, caurare, gloria, pane, buzzonare, tiro, fumme, guarantella, colabrone, struccolella, capegliuole, saglie, scinta, capo, l'inchiodore, che fascina. Bussole, nozzole, panelle, dameggiane, scanne dietro, scherbezze, amore, contorno, tende, tante, sottante, tantone, crastole, vuotole, serpe, sazze, pause, sottole, ate, scarpe, mobiglie, gambe, una giostra, nove, nove, con tutte posta. Ade belune, caune da mille, casce rosse, piccerillo, ai che piede fucarone da mille, tante chiottante tantone, quando botta rassusia, caccia Stefano, mamma mia, accenderare le mappate, a milione letterata. Verde schifezza, bili una tonnellata e abbandona, non pericolo che vivo, fuoco, casa vera per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la percolata, tutto tu cale pagone, bu bu bu la nefedona. Pure cantaccia mallandata, cace manga molociata. Noi volimmo che morite per fare questa piazza pulita e c'è bevimmo una mezza di sei per la salute di lui e di lei che ci guardammo lo guannarone per salvarci l'obramana.